Ho scritto questo libro che si intitola Caravaggio, Giordano Bruno e l'invisibile natura delle cose per le edizioni L'Asino d'Oro perché ho voluto approfondire una questione che la storia dell'arte ha sentito già da molto tempo ma che non ha sviluppato ancora del tutto. Il libro è un'indagine storica e filosofica insieme e vuole accostare questi due personaggi che furono estremamente importanti sia per la loro epoca ma anche per la nostra. Infatti si affacciarono entrambi ad un mondo nuovo che era lo spazio, l'universo infinito di cui parlava appunto Giordano Bruno, ma era anche uno spazio umano che poi Caravaggio seppe rappresentare e lo attraversarono senza paura, coraggiosamente. I loro linguaggi e i loro contenuti sono dirompenti e stracciarono completamente quelle acquisizioni culturali ormai desuete del loro tempo in nome del rapporto con la realtà che fino ad allora era pieno di preconcetti e di gerarchie. Io intendo con questo libro offrire al lettore l'approfondimento di un aspetto di cui spesso gli studi specifici storico-artistici non si occupano, e cioè la possibilità di ricostruire il tessuto connettivo in cui quei fenomeni sono accaduti, insomma in un certo senso la pelle viva che racchiude i fatti storici. Cioè, nonostante nel libro non c'è luogo per forzature suggestive che però fanno perdere di vista la verità storica che al contrario è sempre documentata. Il libro si rivolge ad un pubblico di specialisti sicuramente, ma anche di non specialisti. Gli specialisti potranno trovare un'ampia bibliografia, i riferimenti esatti delle opere, notizie storiche e così via. Invece i non specialisti spero che si potranno appassionare ad un saggio che è offerto in forma di racconto. La prosa è scorrevole e appassionata perché appunto di questo si tratta, è il frutto non peregrino di una passione che spero qualcuno voglia condividere con me.